Ok, ok, sì. È questa vita pratica, sì. La mia vita, sì. Obliteratore 006, Secoman sul beat, la nuova era production. E senti qui, cazzo, e senti qui, baranzate. Questa è la merda che vivo, la scrivo e la porto in giro. 1194, matricola, pellicola che porti insoddisfatto. Trottola, pallottola, su un treno avanti e indietro nell'amianto. Sciatto, mi trapianto, la contratto se mi schianto nell'impianto. Esco luce, torno buio, esco buio, torno luce. Nella mia divisa truce come un duce quando blittero biglietti. Degradi i miei stipendi, i miei progetti, i miei denari, gli incidenti ferroviari non rispetti. Almeno io quando fa scuro, io ce l'ho un posto sicuro. Quello straccio di lavoro, tanto ambito, vaffanculo. Invece tu a riposo su un binario morto, per un altro rotto mantenuto cascamorto. Tu fai finta, non sai cosa vuol dire fare parte di un sistema, non hai lingua. Non sai cosa vuol dire avere mal di schiena quando è sera, non avere voglia di parlare con nessuno, saltare un pasto, vivere digiuno. Non sai cosa vuol dire stare al freddo con la merda in culo senza più mio padre. Bollette che ti mettono alle strette da pagare, la percentuale di infortuni aumenta. Gente come te si sbacca gozzoviglia, qui l'aspettativa si lamenta. Popolo passivo che fa numero, bestiario umano stupido, carruba per maiali, cazzo torna a casa subito. Sì, dai, questa è la mia vita, obliteratore sopra i treni la partita. Sì, dai, questo è ciò che sono, e fenino uomo va di trova sul lavoro. Sì, sì, dai, questa è la mia vita, obliteratore sopra i treni la partita. Sì, sì, dai, tanto è ciò che sono, sì, e fenino trova sul lavoro. Fennino poliziotto, sì, in piedi 4 meno 10 del mattino, panzerotto quando indosso il mio giubbotto. Estate, primavera, autunno, inverno, sopra un pullman graffitato. Saronno, c'è Milano, nell'inferno, bara onda. Prime, ultime, intermedie, scuole, medie, barba incolta. Arterie del quartiere, case mobili occupate, vita cronache italiane, coordinate, pendolari sulle strade. Shot per i prelievi, versamenti, banca intesa, cicalini. Arrivi con partenze, baracchini di panini. Ammazzo tempi morti con pacchetti su pacchetti. Sigarette, macchinette, vendo i poeti. Non rimpiango quelle notti in cui lavoro, non ci sono per andare nel locale. Penso al dopo, tanto vale la mattina. Siamo tutti uguali, pesa la coscienza insieme agli ideali più di prima. La maggior parte della gente che conosco non lavora. Fascia chilometrica, vettura riservata artificiosa. Accetta la mia predica, il lavoro ti nobilita. La comitiva è il capolinea, mastica. La gente che conosco mi considera portatore di realismo enfatizzato, empatico, sensibile, mi evita. Ti fa schifo il mio presente, ma è soltanto vita pratica. Sì, dai, questa è la mia vita, obliteratore sopra i treni la partita. Sì, dai, questo è ciò che sono, e fenino uomo va di trova sul lavoro. Sì, sì,